известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. On the Thai Myanmar border, the island of Chukrut is deep in prayer. Vi abbiamo raccontato che l'intendimento, la novità, in un certo senso il nuovo orientamento del programma quest'anno è aggiungere, no, quel piccolo suffisso 360 gradi alla altrettanto piccola storia di Jefferson, ovvero di considerare, al di là insomma dei centri gravitazionali di interesse della trasmissione, che stanno sempre nell'universo americano, nelle sue influenze, risonanze sul resto del mondo, un osservatorio che invece a 360 gradi si vada per l'appunto a interessare di cose che succedono altrove. E allora oggi, con il tempo un po' tiranno che ci costringerà a correre per tutto il programma, comunque oggi vogliamo lanciare così un piccolo segnale, in realtà non facendo altro che rimandare una notizia che abbiamo a nostra volta intercettato, che ci ha colpito, di cui ci ha colpito anche l'assenza dai grandi centri informativi nazionali. Insomma, una storia importante, del tutto sommersa nel circolo informativo italiano, di cui vale almeno la pena di dare cenno. Poi se l'interesse del pubblico ci sarà, probabilmente il passaparola farà almeno il primo passo. La storia è stata lanciata da CNN con molta rilevanza dopo che alcune agenzie, come ad esempio Asia News, già da giorni ne parlavano. La storia riguarda una minoranza, ma stiamo parlando comunque di circa 1 milione di persone. Una minoranza risponde al nome di Rohingya e sono una minoranza di fede musulmana situata a cavallo, a confine tra Bangladesh e Myanmar, la vecchia Birmania, una minoranza di persone di grande povertà, perseguitate già all'interno dei confini nazionali per una lunga storia di intolleranze etniche, che cercano rifugio sulle coste occidentali della Thailandia in qualità di boat people. Ne sappiamo qualche cosa anche noi, no? di sbarchi notturni, di sbarchi quando c'è il sole. Sono sbarchi della stessa natura, dello stesso tenore. Sono andati in scena nel 2005-2006 con l'arrivo certificato di oltre 1200 profughi. Nel 2007 i profughi sono diventati 2700, nel 2008 sono diventati circa 5000 e il numero continua a aumentare esponenzialmente. Il problema, e di questo ha trattato l'inchiesta di CNN con prove fotografiche e video, il problema è che l'accoglienza che trovano sulle coste della Thailandia è tutt'altro che buona. Vengono in linea di massima i rifugiati vengono in linea di massima detenuti per un certo periodo di tempo in una isola al largo del mare Andaman, e da qui poi sono stati, e ci sono fotografie da parte effettuate da turisti, da visitatori, da in un paio di casi anche reporter, vengono sottoposti a maltrattamenti di vario genere e soprattutto a un certo punto vengono caricati su delle zattere portate al largo da navi thailandesi e qui abbandonati. C'è la sicurezza che questo sia avvenuto perlomeno 5 volte e si parla di un numero, scusate sto ancora verificando i dati, ma si parla di un numero di 5 barche sicuramente abbandonate al largo. Vengono di solito abbandonate con un paio di sacchi di riso e un po' d'acqua. Le centinaia di morti che ne seguono avvengono per affogamento o per abbandono di queste zattere dei disperati, o le zattere a loro volta scompaiono sono nel mare davanti alle coste della Thailandia. Non esiste informazione al riguardo, le autorità thailandesi hanno prima negato recisamente, i militari thailandesi, qualsiasi coinvolgimento in questa storia. Adesso il governo thailandese ha lanciato una inchiesta, le prove sono disponibili sul sito di CNN, che ha dedicato anche un ampio servizio nel weekend a questa storia, facendone d'improvviso, se non altro, una storia visibile a livello mondiale. Noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Se andate sul sito di CNN o se fate una semplice ricerca, se andate sul sito di asianews.it, dove c'è un interessante articolo uscito non più tardi di una settimana fa, il dramma dei profughi Rohingya arrestati in Thailandia, abbandonati in mare aperto. Vi leggo un breve estratto: l'esercito Thai arresta e detiene i rifugiati Rohingya in un'isola del mare Andaman, poi li abbandona in acque internazionali. La denuncia arriva dalla ONG americana Refugees International, che accusa i militari di violare le leggi internazionali sui diritti umani e invita il governo di Bangkok a intervenire per porre fine agli abusi. I profughi Rohingya appartengono a una minoranza etnica musulmana diffusa al confine tra Myanmar e Bangladesh. Si concentrano nello stato di Rakhine, un tempo chiamato Arakan, nella Birmania occidentale. Sono vittime di persecuzioni e abusi perpetrati dalla dittatura birmana, come vi dicevo prima. Questo è il motivo principale per cui cercano di allontanarsi da quella nazione, in cerca di una fortuna, di un benessere che però non trovano. Quanti scelgono la fuga, infatti, e cercano rifugio sulle coste occidentali della Thailandia, vengono prima arrestati dai militari Thai e detenuti per un certo periodo di tempo, poi vengono abbandonati in acque internazionali a bordo di zattere, canoe e quant'altro, sprovviste di motore o di vela. C'è un attivista americano che parla, dice: il governo thailandese mette a rischio la loro vita per puro tornaconto politico. Ci sono delle interviste visibili sul sito CNN e anche su quello della BBC, in cui gli abitanti della costa thailandese dicono senza mezzi termini: noi questi profughi non li vogliamo, noi abbiamo imparato a usare le armi per cacciarli via. La storia per ora, ripeto, è sfuggita a qualsiasi periscopio internazionale, adesso è emersa, conoscendo la permanenza di queste storie. Bisogna vedere quanto reggerà, ma se non altro è entrato nel circolo dell'informazione. Se siete abitué di Jefferson, se siete abitué del nostro programma e ormai anche dei suoi siti Facebook, stamattina implacabile vi sarete trovati nella vostra posta elettronica la nostra letterina, la nostra comunicazione, la nostra in realtà proposta di discussione, come quelle che si fanno quando si incontra un amico. Si sono lette alcune notizie, si è entrati magari in possesso di qualche notizia d'ultima ora e si vuole condividere. decidere e cercare i pareri degli altri, che è quello che noi facciamo ormai abitualmente, come avrete capito in questa nuova edizione del programma. E vi abbiamo mandato una letterina che diceva più o meno così: in coincidenza con l'avvento di Obama, l'Italia vuole tornare a contare sullo scenario internazionale, come ai tempi della missione Iraq. Frattini dice che il governo è pronto a collaborare con le decisioni della nuova amministrazione americana di chiudere Guantanamo, arrivando a farsi carico dell'accoglienza di alcuni terroristi. E inoltre su Gaza, sempre Frattini, la posizione italiana è di non creare le condizioni per un nuovo governo di Hamas nella striscia. Secondo Frattini l'idea è che siano le agenzie dell'ONU e della ANP a gestire la ricostruzione, e sarà recepita perché non si può affidare a un compito così importante a generiche ONG che magari potrebbero essere legate ad Hamas. A questo punto noi abbiamo chiesto a tutti voi di dire i vostri pensieri, le vostre idee, insomma, di esprimervi. Express yourself. Express yourself. E voi non venite mai a mancare, questa è una cosa sulla quale ormai sappiamo che possiamo contare. Mauro scrive: in linea di principio mi sembra una buona mossa, parliamo di Guantanamo, per riaccreditarsi dopo le battute sull'abbronzatura e quella ben più grave di Gasparri. Maurizio su Guantanamo dice: neanche non ne avessimo abbastanza dei guai di casa nostra. Invece riguardo a Gaza dice: pienamente d'accordo, darei qualsiasi forma di aiuto economico e non a un gruppo di terroristi sarebbe la matematica certezza che i fondi per la ricostruzione la povera gente non li vedrebbe mai. Matilde: ho l'impressione che Frattini deliri, ho capito che vuole mettere in mostra l'Italia in un momento in cui l'America non la considera molto, ma mi sembra che le sue siano affermazioni a caso. Per quel che concerne i detenuti di Guantanamo, dove li mettiamo? Dite che preferirebbero una residenza del 1400 o del 1500? Matteo: credo che la gestione dei terroristi sia tutta a carico della nuova amministrazione, non di altri paesi. Obama ha avuto fretta di chiudere Guantanamo e che ora siano i suoi giudici ed esperti a risolvere questa situazione. Tutto ciò è dettato dal fatto che prima si prepara un piano di uscita e poi si può chiudere tutto, ciò, cosa che non ha fatto Obama. Massimiliano: l'impressione è che quello che dice e fa Frattini non fa il paro con quello che dice e fa Berlusconi. Giovanni su Guantanamo: ok, mi sembra una buona disponibilità, anche se ritengo che la questione dei prigionieri sia unicamente americana. Invece su Gaza dice: mi sembra corretto che ANP e ONU si occupino in prima persona come enti chiamati in causa per la ricostruzione. Certo che parlare di ONG così genericamente, possibilmente legate ad Hamas, mi sembra un'affermazione che debba essere comprovata da fatti. Gianfranco: gli intenti del ministro Frattini appaiono positivi, con un solo ma: dov'è un coordinamento delle politiche delle nazioni europee? Germana: ritengo che in generale sia stato opportuno che il ministro abbia reso nota e pubblica la posizione del paese. Circa il contenuto delle sue dichiarazioni su Guantanamo, mi colpisce la definizione terroristi per i suoi prigionieri, per i quali non c'è mai stato un regolare processo. Quanto a Gaza, non concordo sul giudizio del ministro nei confronti delle ONG, che più di altre realtà, medici volontari, sono sempre state vicine ai bisogni della popolazione palestinese. Nicoletta su Guantanamo: farsi carico dell'accoglienza di alcuni terroristi e in cambio ci consegnano i responsabili della strage del Cermis e dell'omicidio Calipari, si chiede. E su Gaza: sono d'accordo a non coinvolgere l'ONG, ma non per eventuali complicità con Hamas, ma perché amministrazione, gestione e coordinamento della ricostruzione dovranno essere responsabilità dell'autorità palestinese. Mattia: penso che con i problemi che abbiamo in Italia sia uno scandalo buttare fior di quattrini per cose inutili tanto per apparire. Peter: questa offerta non mi sembra seria da parte di un paese che ha nel suo curriculum l'esperienza di Lampedusa. Mauro: a me sembrano dichiarazioni tanto per dire. Hermes: la stessa ONU in tema di Gaza e di Hamas non è purtroppo priva di responsabilità. L'UNIX: lodevole iniziativa italiana di recepire un po' di terroristi e presunti tali. Occhio Barak, che poi te li ritrovi in libertà tra qualche mese. Riccardo: ONG legate Hamas esistono? Punto di domanda. Alessandro: Hamas è stato democraticamente eletto dai cittadini della striscia di Gaza, pensare di poter agire come sono noi stesse è follia pura. E tanti altri che seguono, ma purtroppo dobbiamo fermarci qua, tempo tiranno oggi, ve l'ho già detto, arrivano le notizie. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. E allora, nel nostro giro a 360 gradi, la Cina rimane sempre nei nostri pensieri, soprattutto oggi che siamo entrati ufficialmente nell'anno del bue. Ho letto che c'è stato un veglione. C'è del sollievo in giro. Ho letto che c'è stato un veglione a Pechino con 21.000 invitati, una cosa pazzesca, i numeri sempre stratosferici che ci regala la Cina. Ebbene, c'è una cosa curiosa però che riguarda questo anno del bue, che tra l'altro è il secondo animale dell'oroscopo cinese dopo il topo dal quale siamo usciti. Stai studiando come un matto. Bue, bufalo, toro, insomma, c'è stata anche una disputa piacevolissima con gli ascoltatori su questo nome dell'anno nuovo cinese, stanotte il capodanno a Pechino e dintorni. Dunque, in cinese si dice new. E quindi cos'è successo? Una casa produttrice di latte, il latte non è certo un elemento che va per la maggiore in Cina in questo periodo, si chiama Mengniu, quindi non riguarda però la Sanlu e le altre aziende coinvolte nello scandalo. Ebbene, questa grossa azienda cinese ha lanciato uno slogan, Happy New Year, scritto New, scritto N-I-U proprio alla cinese. Facile. E quindi hanno messo in piedi uno spot pubblicitario che sta bombardando la televisione cinese con circa 500-600 milioni di ascoltatori. Sì. Ogni giorno questo spot a tamburo, che andrà avanti fino al 9 di febbraio, quindi tutti a ripetere questo slogan Happy New Year. Sulla nostra pagina di Facebook Jefferson 2 c'è già il video pronto con dei bambini molto allegri, molto carini, che cantano lo slogan Happy New Year. Si vede tutto, Emiliano studia il cinese, qui le cose cambiano. We begin this year and this administration in the midst of an unprecedented crisis that calls for unprecedented action. Le cose cambiano e Obama, come vi abbiamo più volte raccontato, il suo discorsetto della domenica lo fa via internet, peraltro è disponibile, se ve lo volete vedere nella sua interezza, sul sito della Casa Bianca, The White House, della quale ormai da poco meno di una settimana è legittimo occupante. Un discorso interessante, molto tecnico, denso di numeri. Se siete appassionati di questioni americane, qui where is the beef, no? Dov'è la carne, si chiedeva un tempo parlando a Obama. Non è troppo fumo, troppo vapore? Beh, qua i numeri ci sono tutti, soprattutto numeri relativi alle questioni occupazionali e a dove queste questioni occupazionali possono trovare sbocco. Unica notizia di oggi riguardo a Obama, che abbiamo messo in onore 360 gradi un po' nell'angolo, ma l'altra che vi do riguarda il suo principale collaboratore per l'economia, Timothy Geithner, designato segretario del Tesoro, che proprio riguardo alla Cina aveva preso posizione accusando i cinesi di manipolare i cambi. I cinesi gli hanno risposto a stretto giro dicendo: stai scherzando, noi non manipoliamo proprio nulla. Ne sono testimonianze delle agenzie di Bloomberg e di France Press. L'accusa di Geithner, secondo fonti cinesi, è del tutto infondata, che la questione si stia già riscaldando e che tra la nuova amministrazione economica americana e il governo cinese, come dire, ci sia maretta, è un dato di fatto. A più tardi. Abbiamo un ospite in studio, si chiama Adib Fateh Ali. Buon pomeriggio Adib, è un giornalista della Picom, lo conoscete se siete abituati alla nostra radio, una rubrica su Radio 24, si occupa di rassegna araba, è nato a Baghdad di etnia curda in Italia dal 1973, laureato in architettura, per 50 anni ho fatto tutt'altra cosa. Quanti anni hai? 54. Va bene, comunque giornalista in servizio attivo, come si dice. con lui vogliamo oggi, in onore ai nostri intendimenti più globali rispetto alla passata edizione del programma, occuparci di tornare a parlare di Gaza dopo qualche giorno di latitanza da questo argomento, riguardo al quale però nell'ultima puntata del nostro programma avevamo fatto qualche chiacchiera attorno a questo articolo uscito sul Corriere della Sera in data 22 gennaio a firma di Lorenzo Cremonesi, uno dei pochi giornalisti che è riuscito a entrare nella striscia Gaza durante l'occupazione dell'esercito israeliano. Un articolo in cui alcune delle verità, soprattutto alcune delle cifre, di quelle che sembravano ormai dati assodati riguardo alla intera operazione vengono parzialmente smentiti con delle chiamate a responsabilità piuttosto sorprendenti, insomma con l'intenzione di far capire che le cose non siano andate come quel veicolo globale che è l'informazione, no? L'all news mondiale sembrano averci suggerito negli scorsi giorni. Io so che hai letto questo articolo, che parere ci puoi dare al riguardo? Io l'ho letto anch'io, ho una grandissima stima, so che è un giornalista molto obiettivo, Cremonese, altre volte l'ho letto anche nella situazione irachena. Cioè, qui dice che i morti sono la metà di quelli che sappiamo, delle cifre che conosciamo, ad esempio, sono cose gravi. Per la verità, questo è i dati circa i morti accertati anche a Jenin, è successo in precedenza, sono sempre stati sotto il controllo di Hamas, certo. In qualche maniera comunque. Quindi dire con certezza, anche la stessa TV all'Arabia in qualche maniera riportava le notizie dei morti, li dava secondo le fonti palestinesi. E avere dei sospetti circa il numero dei morti è una cosa legittima, è fuori dubbio. Questo non esclude che la portata della distruzione che ha fatto l'offensiva è stata enorme, soprattutto l'impatto sull'utenza araba, che insomma molte televisioni che con non stop per 23 giorni hanno trasmesso le immagini soprattutto di bambini che venivano attaccati. Dal punto di vista della comunicazione è la prima volta che accade una cosa di questo genere, cioè che anche da parte araba si segue minuto per minuto un evento di questo genere. Guardi, per la verità è successo 2 anni fa con l'attacco nel sud del Libano con gli Hezbollah, però questa volta le immagini sono state molto più forti, più diffuse, le TV veramente 24 ore su 24, soprattutto Al Jazeera aveva 4 inviati a Gaza, immagini da terra, dal cielo, insomma sotto tutti i profili, e comunque devo anche dire che quelli di Hamas erano molto ben organizzati ad arrivare sul punto e far vedere delle immagini più potenti, più forti, a colpire l'emozione del pubblico ed anche le testimonianze portate davvero con estrema efficacia, questo assolutamente. La cosa che mi ha colpito, per tornare al discorso Cremonese, questo che ci si aspettava in qualche maniera una sorta di ribellione nei confronti di Hamas, Cremonese riportava le testimonianze di qualcuno che accusava Hamas di responsabilità o almeno di corresponsabilità circa quello che è avvenuto alla popolazione palestinese. Devo, ahimè, dire che purtroppo questo non è avvenuto. Dico purtroppo perché non è che guardi con simpatia le geste del movimento estremista islamico di Hamas, sono un fiero oppositore pur facendo giornalista, però le mie convinzioni ce le ho, ritengo non facciano l'interesse del popolo palestinese. Anche se la lotta del popolo palestinese è legittima per avere un proprio Stato e vivere a fianco di Israele come ci si ripromette. Ecco, la cosa che sembra abbia salvato Hamas un attimino dagli stragli di, non so se si dice così, dell'Iran nelle riunioni avvenute a Damasco, che lo Stato Maggiore si ritrova lì, delle varie fazioni palestinesi, era molto soggettato a critiche, secondo quanto riportano le descrizioni dei giornali arabi, per non aver saputo gestire la battaglia in maniera adeguata, come lo fecero gli Hezbollah. Effettivamente la resistenza lì fu più efficace, la battaglia sul terreno, non abbiano dimostrato efficacia. però li ha salvati il fatto che sono riusciti a tenere il sotto controllo e le eventuali contestazioni che non sono state. Certo. Senti Adib, un'operazione chiamata Piombo Fuso, un nome che già evoca una estrema decisione di intenzione nel momento in cui è cominciata, si è poi saputo che per mesi è stata organizzata. Io mi ricordo di aver letto non appena l'operazione è partita su un grande giornale americano, un editorialista israeliano che scriveva nei primi giorni di questo attacco Israele si è sentito al suo meglio, no? Era uno di quei blitz di polizia, come si dice in Israele, che in un certo senso rappresentava, riassumeva, no? L'attitudine, l'atteggiamento di Israele in occasioni come questa, la capacità di imporre, no? uno splendore militare, una potenza militare. Poi tutto si è improvvisamente fermato. Perché secondo te tutto si è improvvisamente fermato e la marea è ridiscesa così rapidamente? Hamas è stata colpita, ferita, ma non probabilmente affondata, e l'operazione Piombo Fuso è entrata subito, no, al passato. Che cosa ci dici? A parte il fatto che ho una considerazione un po' diversa, questo potere deterrente dell'esercito di Israele, mm-hmm, che nei confronti dei regimi arabi è stato fortissimo fino alla guerra nel sud del Libano contro gli Hezbollah, ha perso un po' di mordente, devo dire la verità, perché la gente... E non è proprio questa una delle ragioni per cui l'hanno riproposto, proprio perché in Libano le cose non erano andate così bene. Sì, ma il punto è questo. Io, per quanto riguarda il Gaza, ho netta la sensazione, l'impressione, ma sentendo moltissimo, perché per motivi di lavoro sono molto dentro quello che è avvenuto a Gaza in questi 23 giorni, è che l'attacco di Israele sia avvenuto un po' d'accordo con i regimi arabi moderati, l'Egitto in primo luogo e l'Arabia Saudita, che sono i due paesi con maggior peso, uno finanziario e l'altro per profondità di popolazione, cioè conto 80 milioni, per, diciamo così, preparare una soluzione al problema, al conflitto che c'è, che permane e che non è stato risolto. Questo per un verso, per l'altro era quello di preparare, diciamo così, preparare terreno. Chi ha detto togliere fuoco delle castagne ad Obama? Comunque non si poteva fare questa operazione quando arrivava l'uomo del cambiamento, certo, atteso da tutti, ma moltissimo anche dalla popolazione araba. Nell'opinione pubblica araba c'era netta la sensazione che con l'arrivo di un uomo nero di fede, anche se lo riconosce lui, ma di origine comunque di sapore musulmano, tant'è vero che spesso usano il nome Hussein piuttosto che Barak, abbinano ad Obama la parola, il nome Hussein, proprio per sottolineare questa sua origine musulmana, con la sua promessa di cambiamento, veramente aveva... Ora, intendiamoci... Vuoi dire che c'era una finestra di tempo ben precisa, esatto, nella quale tutto che ciò dovevano doveva agire a fare questa azione. Quindi Israele, se si è fermata, secondo me si è fermata proprio perché era concordato fare così, al di là di tutte le immagini sono visti, hanno creato un'opinione pubblica molto ostile nei confronti, facendo rinascere anche un certo antisemitismo anche qua in Italia. Però doveva fermarsi prima dell'insediamento di Barack Obama nella Casa Bianca. Perché? Perché c'è un progetto. Ti devo fermare, ci interrompiamo un attimo per il traffico, ma prima vorrei un tuo telegrafico commento alla frase che scrive questo storico tedesco, che in un certo senso rispecchia un problema che è più un rompicapo. Scrive: quando un ebreo israeliano dice Israele o un arabo palestinese dice Palestina, pensano allo stesso spazio fisico. Questo è un terribile problema. Io sono profondamente d'accordo su questa espressione, però non la interpreterei necessariamente in senso negativo. I palestinesi, 48, i palestinesi che non hanno, non della diaspora, non coloro che hanno dovuto lasciare, sono estremamente simili agli ebrei di Israele. Sono simili anche nella parlata. Guardi, io conosco l'arabo e quando sento gli ebrei riesco a captare moltissime parole. Nei modi di dire, ho avuto modo di visitare Israele una decina di volte, parlando con molti ebrei di origine irachena, marocchina e così. Ho avuto modo di constatare che la pensano molto, come modi di fare nel commercio al loro operavo erano molto più occidentali, israeliani, ragionavano un po' come gli israeliani. Va bene, torniamo a parlare con Adib subito dopo le notizie del traffico. Parleremo anche di Iran, perché ci sembra necessario tirare in ballo questo dato, e parleremo dell'avvento di Barack Obama. Continuiamo a parlare con Adib Fateh Ali di questione Gaza, di questione medio orientale, di avvento di Barack Obama su questi scenari, ma diamo a questo punto un po' di spazio alle tante domande che ci avete inviato da girare, da sottoporre proprio all'attenzione di Adib. Cominciamo allora. La prima, certo, viene da Paolo, ci chiede di domandarti se ti sembra corretto affermare che Hamas è stato democraticamente eletto a governare Gaza. Alcune fonti sollevano dubbi sulla regolarità di queste elezioni, come succede in tanti posti, soprattutto quando si segue, scrive Paolo, una situazione post-dittatoriale. E poi, perché a tuo avviso la West Bank di Fatah si sta evolvendo socialmente, economicamente, mentre il livello di vita a Gaza resta bassissimo, quello che conosciamo? Ad essere onesti, Hamas ha vinto l'elezione con degli osservatori occidentali pure, quindi non si può mettere in discussione, semmai bisogna mettere fortemente in discussione il golpe che ha fatto nei confronti di Fatah nel 2007, nel giugno, questo sì. Per quanto riguarda il miglioramento, secondo me, dal mio punto di vista, Hamas esiste, a prescindere del fatto di essere o meno d'accordo. Rappresenta, come purtroppo molti movimenti, vedi l'Islam in Iran, in Turchia, l'Hezbollah, hanno un bacino. Se dovessi fare le elezioni, vinca loro. Non perché sia. Sono purtroppo portatori di ideologie nefaste, però a gestire la cosa pubblica sono onesti, sono trasparenti e sono efficienti, come i musulmani in Turchia, l'Hezbollah, in Iran lo stesso. E più della ANP in questo? È più della, perché c'è la corruzione, c'è stata nel tempo di Arafat, in modo esageratamente palese, con Abu Mazen, che forse la cosa è un po' migliorata, anche alle strigliate fatte dell'Unione Europea che faceva i finanziamenti, però c'è, di fatto questo favorisce, oltre poi alle ragioni storiche delle rivendicazioni, secondo me legittime, dei palestinesi di voler vivere in condizioni di pace, magari a fianco di Israele, come una soluzione di pace che possa, che in qualche maniera non sta arrivando. Purtroppo, questo lo devo dire, Israele nel periodo di Rabin ha avuto il massimo, l'apice, la primavera per una pace vera da sottoscrivere con Arafat. Questo secondo me è venuto a mancare successivamente, perché gli equilibri demografici con la caduta del muro di Berlino ha fatto sì che molti immigrati russi andassero in Israele e hanno fatto pendere la bilancia a favore di una destra meno propensa a sottoscrivere una pace che possa. Però sulla demografia poi c'è tutto un discorso, no? Sulla formazione di un eventuale grande Israele, dove poi la componente araba sarebbe progressivamente, no, destinata ad assumere un peso sempre più deciso. Comunque restiamo sono due estremismi, esatto, che hanno le meglio, purtroppo. Restiamo alle nostre domande. Giovanni ti chiede: quali sono secondo te i rapporti tra Siria e Hamas? Quanto può contare la posizione di questa nazione, della Siria, in questo conflitto? La Siria e soprattutto l'Iran hanno un peso, una voce in capitolo molto importante. Non lo avevano fino a pochissimo tempo fa, fino a quando non c'è stato l'avvento di Hamas. Hamas, non essendo stato riconosciuto, secondo me l'errore appunto dell'Occidente fu quello di non riconoscere la legittimità di Hamas. In qualche maniera ad entrare con le Hamas era osteggiata da Al-Qaeda e manteneva le distanze un po' dall'Iran in quanto sciiti. In realtà questo ha un po' compattato Hamas, l'ha reso tutta la sua leadership che conta è a Damasco, le varie fazioni, ed hanno fortissime voci in capitolo, e secondo me per un'eventuale soluzione di pace non si può prescindere in qualche maniera dalla Siria e dall'Iran. Paola Francesca ti chiede quale potrebbe essere, la domanda da 100 milioni questa, a tuo parere un buon presupposto per una trattativa di pace veramente definitiva, ad esempio l'ipotesi dello spostamento dei palestinesi in Libano o in Giordania? Guardi, intanto parliamo di cose concrete, perché questi sono, cioè, come si possa fare, secondo me c'è già un atto. No, spostare un popolo, queste sono soluzioni davvero non si possano prendere, almeno personalmente non riesco neanche a immaginarle, anche perché molti dei palestinesi che sono diaspora difficilmente vorranno tornare in Palestina, però il diritto di ritorno è un... La soluzione secondo me è già preconfezionata, ne parlano un po' anche i giornali arabi. Ed è questa, che c'è fortissima pressione da parte della nuova amministrazione americana e dell'Unione Europea in congiunta, quello di far introdurre alcuni ritocchi all'iniziativa di pace araba sottoscritta nel 2002. 57 paesi musulmani ed arabi l'hanno sottoscritta, addirittura hanno pagato 4 pagine dei principali giornali israeliani per proporla agli israeliani. Voi ci date la terra, riconosce rientrare entro i confini del 67, e noi non solo riconosciamo Israele ma facciamo relazioni diplomatiche. Ora ci sono alcuni ritocchi che ha chiesto Israele, l'Unione Europea sta ragionando con i governi arabi per, una volta accettata, addirittura essere responsabilizzata dalla stessa amministrazione USA e dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite perché questa proposta di pace, l'iniziativa araba di pace, venisse accolta. Una volta accolta questa iniziativa di pace, secondo me c'è poco da fare per qualunque Hamas, perché Hamas oggi può essere estromesso, domani verrà fuori un altro gruppo, quando non hanno l'appoggio comunque di 57, questo secondo me fa sì che potremmo indirizzarci verso una soluzione. La soluzione è quello degli spostamenti o no, sono secondo me anche lì tutte le trattative che sono durate 6 mesi tra Abu Mazen e Olmert sono giunte ad un, sia per definire il territorio, il diritto di ritorno e la capitale Gerusalemme, hanno già definito i dettagli, non ci sono grandi... Qui arrivano dei complimenti per la tua obiettività, quindi te li giro e te li comunico. Te la voglio fare io velocemente un'ultima domanda fra le tante che purtroppo sono rimaste in sospeso, magari ci tornerai a trovare se volentieri, voglio, continuiamo a parlare. Volentieri. Ma dopo le settimane dell'operazione militare israeliana a cui abbiamo assistito, io vorrei chiedere alla tua conoscenza e alla tua intuizione, i palestinesi oggi si sentono sconfitti secondo te? Secondo me si sentono traditi dagli arabi, i palestinesi, ne sento moltissime voci, si sentono traditi dagli arabi, lo slogan principale era quello di resistere, di esistere. Anche con un solo razzo, ma dico dei palestinesi, anche coloro che non sono filo Hamas, perché è stato forte l'impatto delle immagini davvero di questa distruzione che tutt'oggi Hamas, Gaza è sottoposta. I palestinesi si sentono traditi dagli arabi perché hanno capito fino in fondo che c'è una volontà collettiva araba di porre fine a questo conflitto riconoscendo lo Stato di Israele. Gli stati moderati arabi vedono in Iran un pericolo per un verso e per l'altro è uno sperperamento della ricchezza di quella zona, parte del mondo. Se israeliani ed arabi mettono mano nella mano, secondo me ci sono le premesse, anche se sembra utopistico, di creare una piccola grande potenza nell'area, grazie alla know-how israeliano e alla ricchezza araba e anche alla profondità demografica. Non sono molto lontano dalla verità a dire questo. Torneremo a parlarne allora con Adil Fateh Ali, se tornerà a trovarci qui in studio. Grazie a voi. Ancora, e è arrivata appena una notizia di grande interesse. Prima parte la sigla. Poi ve la leggo, perché un'agenzia di pochi istanti fa: l'Italia starebbe già valutando una lista informale di nomi di detenuti di Guantanamo che potrebbe ospitare una volta chiuso il carcere statunitense. Sono già pervenute indicazioni di nomi che stiamo esaminando con spirito positivo, ha detto il ministro in conferenza stampa a Bruxelles, appoggiandoci ad alcuni principi largamente condivisi tra molti paesi dell'Unione Europea. Frattini ha però precisato che al momento non sappiamo ancora quanti ne potremmo ospitare, né sappiamo ancora dove, ma quindi questa notizia sta correndo, no? La chiusura di Guantanamo risale, la firma per la chiusura di Guantanamo di Obama risale a soli pochi giorni fa. L'Italia è entrata nel gioco di questo tavolino assai particolare, assai interessante, forse anche assai pericoloso. Questo è Jefferson Ming, sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, la parte tecnica oggi è stata curata a Roma da Valerio Rocchetti, a Milano da Fabio Cantadori. La mail che rifunziona perfettamente è Jefferson2 in numero, @radio24.it, ma soprattutto ci trovate su Facebook, mi raccomando, redazione Jefferson2 con 2 scritto in parola, redazione Jefferson2 per parlare con noi della redazione, e Jefferson2 Radio 24 Express Yourself, la nostra bacheca dei dibattiti di cui diamo ampio conto tutti i giorni nello spazio che si chiama proprio Express Yourself. Poi su radio24.it trovate il podcast, potete trovare notizie e link per essere in contatto con il vostro programma, che va in replica stasera alle 24, ripeto alle 24, e in diretta domani alle 16, come sempre qui da Radio 24. Ci risentiamo. <音>大作曲舍生涯戏沉默的人最聪明不做无聊的回忆拍谁拍谁